Questa canzone la voglio in particolare dedicare a mio padre, a mia madre e a tutta la mia famiglia. Grazie.